Roberto Fabris. Eccoci di nuovo insieme in questo sabato 15 novembre. Come ogni sabato arriviamo anche noi. Come arriva il weekend arriva anche Housemaid. Questa notte un ospite speciale che ormai non è più un ospite ma è un ragazzo di casa. Diamo il benvenuto a Roberto Rossi, in arte il colonnello. Ciao Roby. Oh, ciao Albi, che bello tornare live sulle frequenze di Blu Radio. Bello carico come sempre, pronti per un'altra puntata di Housemaid. T'ho sentito arrivare con un rombo della Madonna. Penso sia il tuo Ferrari che è parcheggiato qua di fuori, no? Sì, sì, me l'ha prestato un Mario Balotelli. Sono sceso con quello. Lasciamo stare, ho la macchina in carrozzeria. Proprio una sfortuna nell'ultimo periodo. Allora ti preparo qui il mio di Ferrari, perché tra finito la puntata volerai verso il Vanilla Club. Esatto, mi devo proprio teletrasportare. Come ho bisogno di Goku, dopo lo chiamo, gli faccio una chiamata per sentire come si fa. Devo teletrasportare al Vanilla in Svizzera per la gran serata con uno special guest, Gabri Ponte. Perfetto, noi iniziamo subito questa notte. Questo è Axel Ingrosso con il loro nuovo singolo intitolato Can't Hold Us Down. Restate qui con noi e nostra compagnia su Blu Radio. Can hold us down. Questo era il nuovo singolo di Axwell Ingrosso, il duo che si è ritirato dalla Swedish House Mafia, o meglio, si sono sciolti, però loro due hanno continuato su due strade unite, mentre Steve Angelo, poverino, l'ha lasciato a piedi. Prossimo disco è in arrivo, il David Guetta, si sta aspettando il suo album. Certo, con ansia, sono rimasto a Love Don't Let Me Go. E questo è il nuovo singolo Dangerous, però è il remix di Steve Aoki, anche lui ci I piace. Say Steve, you say Aoki. Steve, hey Aoki! Con Dangerous, il remix di Steve Aoki qui su House Made. Io vi ricordo di mettere mi piace anche alla nostra pagina Facebook e di seguirci, perché noi pubblichiamo un sacco di quelle canzoni che devono ancora uscire, ragazzi, quindi state con noi. Allora Roby, il prossimo disco è, torniamo un po' alle tendenze un po' più classiche, un po' più house, bello, bello, con bello, di Criminal Vibes. Ti piacciono? Sì, mi piacciono molto, li ho ascoltati una volta live e sono veramente forti. Sono bravi, io non l'ho mai sentito, sì, quindi non so dirti. Sì, ascoltate. E questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Push the Feeling On. E buon ascolto dalle frequenze di House Made. Ah, qui è Blu Radio, eh. Light. Erano i Criminal Vibes con Push the Feeling On, scusami. Yeah. Robby, tu sei sempre in giro, praticamente non stai mai a casa, sei sempre in giro per locali con i tuoi ragazzi, ragazzi di Mida. Come procede la vostra Come procede la vostra attività? Ma la nostra attività procede veramente alla grande, direi. Siamo impegnati sistematicamente tutte le settimane, dal venerdì alla domenica. Il venerdì la solita proposta con la collaborazione Minimal Club più Mida. Il sabato siamo belli itineranti, quindi giriamo. Questa sera ricordiamo che siamo al Vanilla Club Riazzino Svizzera, uno dei top 10 club d'Europa. E poi vabbè, si gira comunque, sempre una vita bella intensa. Meno male che ci siete voi, che rallegrate un po' anche le serate di tutta la provincia di Novara, Varese, Milano e Svizzera. Andiamo avanti, dai. Prossimo disco, Sick Individual con Made for This, qui su House Made. Come and see me now, I'm already gone, even now. Durante questo disco c'era Roby, o meglio il colonnello, che sventolava le mani al cielo come se fosse in serata, come se fosse l'Ultra Music Festival. Ultra Music Festival di cui sentiremo il disco successivo, la nuova canzone, è la canzone dell'after movie dello scorso Ultra Music Festival. Tu, abbiamo già detto nella scorsa puntata, sei stato al Tomorrowland, ti piacerebbe andare anche all'Ultra Music Festival a Miami? Certo Albi, è il mio prossimo obiettivo, quindi ho messo lì sulla bacheca con la puntina Ultra Music Festival, prossimamente colonnello deve essere presente con le mani al cielo come su questo disco. Quando è partito sono impazzito, t'ho visto, già t'ho visto. Ho chiuso gli occhi, immaginavo un bel make some noise. Ma poi senti già anche adesso questa melodia molto molto orecchiabile, fantastica. Ragazzi, io vi consiglio di chiudere gli occhi, ma non se state guidando, se siete in macchina, perché sennò succede un casino. Se siete a casa, alzate lo stereo, chiudete gli occhi. Visit One, United We Dance. nostra Vincent One con United We Dance qui su Blue Radio con Housemaid. Avevamo dubbi su come si pronunciasse Vincent One, l'abbiamo chiamato Vincenzone, dai. Vincenzone, secondo me è un bel Vicetone. Vicetone sta veramente da Dio. Anche perché Vincetone si scrive così, quindi noi da ignoranti diciamo Vincetone. Prossimo disco lo dedichiamo al nostro amico, al nostro DJ, al nostro carissimo artista, carissimo. Gabri. Sì, uè Gabri, alza il volume. Questo è Kreider e Tom Stars con Jericho. Kreider mette tutta la sua musica in free download. Te sei d'accordo sul mettere le produzioni online? Guarda, sicuramente sono d'accordo quasi al 100%, perché allora la musica, vabbè, ovvio che gli artisti è giusto che incassino qualcosa da quello che producono, però sicuramente è una cosa che fa piacere dalla parte, vista dalla parte del fan. Quindi un fan dice: guarda, il mio artista preferito ha messo i suoi dischi in free download, perché vado subito a prendermeli. Quindi no, secondo me è una cosa molto positiva. Perfetto, quindi è Kreider e Tom Stars con Jericho. Restate qui con noi, è sempre in nostra compagnia. Non abbandonateci. No, mai. Con il colonnello e Alberto Fabris. Questa è la puntata sabato 15 novembre sulle frequenze di Blue Radio. Housemaid. Jericho. Tom Star qui con Housemaid, il titolo era Jericho. E ora in arrivo un grande classico del rock con gli AC/DC remixati, o meglio mashupati da TJ Hark, una sua produzione. Se ti dicessi rock più house, sei d'accordo? Ma guarda Albi, io sono veramente d'accordissimo, perché mi piacciono queste contaminazioni musicali con altri generi. Cioè, secondo me vengono fuori delle cose che fanno impazzire la gente, perché uno non se l'aspetta e parte questa bomba rock in una musica house e piace un casino. Vedi la gente che veramente impazzisce nei locali. Perfetto, quindi ragazzi alzate il volume a manetta, perché ne arrivo una bomba qui su Housemaid. Ci hanno portato anche il domperino luminoso qua in radio, che bello. Mamma mia, che bello. Qui è un grande party per tutti. Andiamo avanti, che il prossimo disco è Calvin Harris, lo scozzese, con Ellie Goulding. Questa è Outside. Look at what you've done. Everything. Questa era Calvin Harris con il featuring di Hayley Goodwin, il titolo era Outside. E ora ne arriva un bel mashupino di un ragazzo che adesso non mi ricordo neanche più chi l'ha fatto, ma è riguardante Gabri Ponte. Stasera come sarà la serata, Roby? Tu sei già qua che ti tremano le gambe, sei già pronto, sì. vuoi andare. Sono veramente preoccupatissimo per questa serata perché non ho mai lavorato con un top DJ di caratura così elevata. Ricordiamo che è anche al 61esimo posto della top DJ Mag. E quindi sarà un onore per me lavorare al suo fianco. Anche perché, voglio dire, 61esimo a livello mondiale, quindi è una bella posizione. Non è poco. Che poi anche lì, tutta la diatriba che c'è stata. Vabbè, lasciamo stare, l'artista Gabri Ponte ti piace perché negli anni 90 ha fatto di quelle cose mega galattiche. Mi ricordo ancora i primi dischi suoi acquistati quando avevo 10-11 anni. E tutti le compilation che andavano, le hot remix party. Tutto il filone dei DJ anni 90. Esatto. Comunque Gabri Ponte è uno di quelli che secondo me è sempre emerso per qualità anche a livello di DJ set. Esatto. Quindi andiamo a sentirci questo mashup intitolato Blueprint Revolution. Restate qui con noi, questo è Housemaid. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. Inside and outside. bel mashupino anche questo, che ha inserito tante canzoni, quale gli FS65, Umet Ozkan, Lenervo, Rehab, Danny e Sig Individual. Tutto questo bel mashup lo state ascoltando qui su Housemade. Ricordo che potete ascoltarlo anche in podcast sul, o con l'app o sul sito www.bluradio.it. E i Fan 65 ti dicono niente? Beh, quel video lì che hanno fatto con gli omettini lì, gli alieni, che figata, veramente hanno... Altro mondo. Ora però in arrivo un'altra bella canzone, sempre del nostro Gabri Ponte, visto che ormai stasera dovrei andare a stringergli la mano, farci una foto. Certo, parliamo di lui, di conoscerlo. Questo è il suo mashup, Tranne te versus Barbara Streisand. Senti che roba. Gabri Ponte è tanta roba, Gabri Ponte è tanta roba. Ma cos'è sta paranoia? Aspetta, fammi fare. Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te. Cosa? Vai Fibra, caccia un po' di rap futuristico. Ok. Continuiamo con la carrellata di successi targati Gabri Ponte. Ricordiamo questo sabato 15 novembre, special guest at Vanilla Club Riazzino. Questa è Time to Rock. Restate qui con noi, eh. Housemaid. Novembre qui su Housemaid, continuiamo la puntata speciale con il colonnello e specialmente Gabri Ponte. Questa è Giulia. Giulia, Giulia, Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica. Non lasciarmi da solo in questa notte gelida. Per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare, faccio di me senza te. Dammi il tuo amore. Housemade ha preso una via un po' tamarra, ma con un Gabri Ponte qui al Vanilla non si può che far altro. Allora andiamo avanti e volevo dire una cosa sempre inerente a Gabri Ponte: il fatto che ha mixato 25 canzoni in 3 minuti. Bel successo, Roby, eh? È una cosa mostruosa, cioè non è da tutti mettersi live con 4 CDJ 2000 e fare una roba del genere. Comunque è un top, è inutile, non c'è niente da dire. Ascoltiamoci questa nuova canzone, no, questa è anni 90. Gabri Ponte con Pinocchio. Restate sempre qui con noi, è in nostra compagnia con Alberto Fabriz e il Colonnello. Dai ragazzi! Questa è Housemade. Certo che Gabri Ponte di canzoni ne ha fatte veramente tante, soprattutto negli anni 90, ma veramente belle. Quella che sta arrivando, secondo me, è la migliore. Tu sei d'accordo, Roby? Sì, sì, sono d'accordo, perché è uno dei primi dischi che ho ballato alle scuole medie, nei primi party, diciamo quelli della festa invernale di Halloween, i primi Halloween, quelli in maschera, ballati. E in arrivo la danza delle streghe, Gabri Ponte. Danzavano le streghe, dici Fabris. Io ci stavo cantando un pezzo prima qua. Qua ormai non è uno studio, è una discoteca. Certo, certo, qua arrivano, non so, le stelline, i razzetti, quelle robe lì. Don Perignon, tutto. Manca solo le tipe. Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Questa sera noi danzeremo con Gabri Ponte al Vanilla Riazzino in Svizzera con il colonnello Gabri C, Mida, Francesco Sessa, Fede Gagliano, tutta la crew di Mida Production sarà al Vanilla. O no, Roby? Sei pronto? Certo, ho già acceso la Ferrari qua fuori. La mia Ferrari. Sono pronto per partire. Io ti ringrazio veramente tanto per essere stato ospite con noi questa sera a Blu Radio Housemade. Io ti rinnovo l'appuntamento per il futuro, quando vuoi, questa è casa tua. Ti ringrazio davvero di cuore, Albi, è sempre un piacere fare la radio con te. E buona serata a tutti, buon weekend ragazzi, godetevi la vita perché è una sola. Da Alberto Fabris è tutto, Housemade, ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie mille e buona serata a tutti, ciao!